Benvenuti a The Debate. Oggi ci addentriamo in una questione centrale per il futuro della scuola, il rapporto con la tecnologia digitale. Partiamo dal pensiero di due voci molto critiche, Marco Guastavigna e Stefano Penge, che propongono un modello alternativo a quello dominante, un modello, diciamo, fondato su emancipazione, equità e sostenibilità. E questo ci porta dritti alla domanda che guiderà la nostra analisi di oggi. Dopo il fallimento della didattica a distanza durante l'emergenza, che ha mostrato, tutti i limiti di un'innovazione fine a se stessa, perché le idee di Guastavigna e Penge, che chiedono infrastrutture pubbliche e software libero, sono ancora oggi così marginali? Io sosterrò che il motivo è soprattutto politico ed economico. Queste idee sono state schiacciate dall'egemonia delle grandi piattaforme, un'egemonia pienamente accettata, se non incoraggiata, dalle istituzioni. E io invece, pur senza negare il peso, che è enorme, delle big tech, credo che la risposta vada cercata anche all'interno della scuola stessa. C'è una resistenza culturale, una preferenza per soluzioni che sono apparentemente semplici e immediate, e una difficoltà oggettiva nel rendere l'alternativa critica una proposta davvero pratica e accessibile per tutti, e non solo, come dire, per una nicchia di esperti. Guarda, parto da un concetto che Penge e Guastavigna usano spesso: capitalismo di sorveglianza. Il motivo per cui le loro idee non prendono piede, secondo me, è tutto qui. Non si scontrano con una semplice preferenza di mercato, ma con un sistema economico potentissimo. Le grandi multinazionali Google, Microsoft, Amazon hanno costruito un impero non solo vendendo prodotti, ma estraendo dati da ogni nostra azione online. Le nostre ricerche, i nostri iscritti, le interazioni dei nostri studenti. Ecco, tutto diventa materia prima per profilare, prevedere e influenzare i nostri comportamenti. Questo modello, che ci viene presentato come l'unica via possibile per la modernità, è stato abbracciato dalle politiche scolastiche. Pensiamo al Piano Nazionale Scuola Digitale. Sulla carta, un'iniziativa per l'innovazione, ma nei fatti ha spinto le scuole a competere tra loro per fondi da spendere in gran parte su soluzioni proprietarie chiuse. Si è creata una narrazione quasi totalizzante, un pensiero unico che usa parole come innovazione o didattica 2.0 e oggi intelligenza artificiale amica dei docenti, per far apparire qualsiasi alternativa come un nostalgico rifiuto del futuro. In questo contesto, una proposta basata sul software libero, sulla trasparenza e su un'infrastruttura pubblica è una minaccia diretta al modello di business dominante e, come ogni minaccia, viene combattuta, ignorata e marginalizzata. Guarda, per me è un po' troppo facile dare tutta la colpa alle big tech e alla politica. Dobbiamo guardare anche in casa nostra, nel mondo della scuola. La marginalità di queste idee, a mio avviso, dipende molto anche da una forte inerzia e da una tendenza molto umana, direi, a cercare la via più breve. L'esperienza del lockdown è stata una cartina di tornasole spietata. Di fronte all'emergenza, cos'è successo alla fine? La stragrande maggioranza dei docenti non si è messa a cercare piattaforme open source o a discutere di sovranità digitale. No, si è rifugiata in ciò che conosceva. WhatsApp per comunicare, le piattaforme più note per fare videoconferenze che il più delle volte riproducevano la vecchia lezione frontale. Si è scelta la continuità, la facilità, non la critica. E poi c'è un altro punto, che Guastavigna stesso ammette con grande onestà. Il mondo open source a volte si presenta con una certa fastidiosa tendenza elitaria. Appare complesso, per addetti ai lavori, e questo scoraggia chi non ha competenze tecniche specifiche. La proposta di Penge e Guastavigna è esigente, chiede fatica intellettuale, riflessione costante. Dall'altra parte, il mercato ti offre slogan seducenti, soluzioni chiavi in mano che promettono di rendere i contenuti accattivanti con un click. È naturale che, nella trincea quotidiana di una classe, la seconda opzione appaia molto più pragmatica. Capisco il punto sulla fatica intellettuale, ma non sono del tutto convinta che la scelta degli insegnanti sia stata così libera e, come dire, spontanea. Torniamo un attimo al concetto di innovazione. Guastavigna lo definisce un vero e proprio dispositivo di potere e credo sia un'analisi perfetta. Non si tratta di una semplice parola, ma di un intero sistema messo in piedi per spingere la scuola in una precisa direzione. Un sistema fatto di politiche ministeriali, di enti come Indire, l'Istituto del Ministero per l'Innovazione Didattica, di bandi che mettevano le scuole in competizione e di tecnologie specifiche come le LIM, le lavagne interattive multimediali, mediali che venivano presentate come la soluzione a tutti i mali. L'editoria scolastica si è buttata a capofitto questo mercato. Il risultato è che il dibattito è stato completamente saturato da questa visione. Non c'era spazio per alternative. E la cosa più assurda è che quando questo castello di carte è crollato durante la pandemia, mostrando tutta la sua fragilità, la reazione non è stata «Ok, fermiamoci a riflettere». No, al contrario, ci si è gettati tra le braccia delle big tech presentate come le uniche in grado di salvare la scuola. Sì, hai assolutamente ragione sul ruolo delle politiche ministeriali nel promuovere un certo modello. Non lo nego. Tuttavia, credo che quelle politiche abbiano trovato un terreno fertile. Quella narrazione sull'innovazione ha avuto tanto successo perché ha intercettato un bisogno, magari superficiale, ma molto diffuso, di modernizzazione. La paura di restare indietro. Se l'alternativa critica si limita a dire «No, quello è un dispositivo di potere», senza offrire una soluzione che sia altrettanto pratica, scalabile e, diciamolo pure, facile da usare, rischia l'autoemarginazione. La corsa verso strumenti familiari durante la crisi io non la leggo tanto come un'adesione ideologica al modello proprietario. La vedo più come una disperata ricerca di stabilità in un momento di caos totale. La richiesta di mettersi a fare una riflessione critica sugli strumenti suona quasi come un lusso, un'astrazione. Non pensi che l'alternativa critica appaia spesso troppo distante dai problemi concreti e immediati dell'insegnamento? Ma è proprio qui il punto. L'alternativa non è astratta. Il movimento per il software libero, il free software, non è solo una questione per informatici. È un modello etico-politico con implicazioni molto concrete. Si fonda su un'idea radicalmente diversa. La conoscenza non è una merce da vendere, ma un bene comune da costruire attraverso la cooperazione. La trasparenza del codice, ad esempio, non è un vezzo tecnico. Significa poter controllare cosa fa un programma, assicurarsi che non raccolga dati di nascosto. Significa avere un controllo democratico sulla tecnologia che usiamo. Per educare, è una via d'uscita tangibile dal modello del capitalismo digitale. Quindi, ti chiedo, la sua scarsa diffusione nella scuola è davvero dovuta a una sua presunta impraticabilità? O non è piuttosto la conseguenza di una precisa scelta politica di non investire in infrastrutture pubbliche, preferendo di fatto appaltare un servizio essenziale come l'istruzione a multinazionali il cui unico scopo, per definizione, è il profitto? L'ideale etico che descrivi è affascinante, non lo metto in dubbio. Ma dobbiamo scontrarci con la realtà. Prendiamo proprio i casi di successo che vengono sempre citati come Wikipedia o Moodle, la piattaforma di e-learning. Come Penge stesso sottolinea, onestamente, questi progetti non si reggono sul puro volontariato. Richiedono strutture complesse e finanziamenti enormi. Sai qual è il budget annuale della Wikimedia Foundation? Oltre 150 milioni di dollari, con centinaia di dipendenti. Moodle, che molti pensano sia un progetto puramente no profit, è in realtà gestito da una società a scopo di lucro che vende servizi e consulenza. La distinzione cruciale, che spesso si perde, è quella tra free as in free speech, la libertà di parola sul codice, e free as in free beer, la birra gratis. L'ecosistema free open ha bisogno di sostenibilità economica e nel frattempo la percezione diffusa nel mondo della scuola qual è? Che il software libero sia complicato, che non ci sia assistenza, che sia sviluppato da una comunità con una mentalità chiusa. Beh, questo è un ostacolo culturale forte almeno quanto la mancanza di fondi pubblici. Non possiamo semplicemente ignorarlo e dire che è tutta colpa della politica. Certo, la sostenibilità è un tema reale, ma è un problema risolvibile con investimenti pubblici mirati, se ci fosse la volontà politica. Invece, cosa vediamo accadere oggi con l'intelligenza artificiale generativa? Vediamo ripetersi esattamente lo stesso schema, ma in modo ancora più aggressivo. È l'ultima frontiera del pensiero tecnopedagogico unico. Ci bombardano con slogan accattivanti. L'IA come copilota intelligente del docente, la promessa di una personalizzazione totale dell'apprendimento. Ma dietro questa facciata si nasconde una forma di estrazione dati ancora più pervasiva. Qualcuno l'ha definita fracking cognitivo. Si trivella ogni singola interazione dello studente, ogni sua risposta, ogni suo dubbio, per estrarre valore. Aspetta, fracking cognitivo è un'immagine potente, quasi spaventosa, ma cerchiamo di essere concreti. Cosa significa per un professore che usa un'IA per preparare una verifica o per trovare materiali didattici? Non stiamo forse creando un allarmismo che ci impedisce di vedere anche i potenziali vantaggi? Significa che ogni pezzo del processo di apprendimento di quello studente viene trasformato in un dato da analizzare per addestrare modelli proprietari e opachi. Non sappiamo quali bias contengono, non sappiamo come vengono usati quei dati, non abbiamo nessun controllo. E le istituzioni scolastiche, ancora una volta, stanno adottando questi strumenti a scatola chiusa, senza porsi il problema. Anzi, stringono partnership con le aziende che li producono. Questo non fa che consolidare la marginalità di chi, come Penge e Guastavigna, pone le domande giuste. Vogliamo modelli aperti e ispezionabili. Vogliamo che l'uso dei dati sia negoziato e trasparente. Vogliamo infrastrutture pubbliche su cui avere un controllo democratico. Queste domande vengono zittite dalla corsa all'ultima novità tecnologica. Ok, capisco perfettamente il rischio che descrivi, ed è reale. Ma non possiamo ignorare il motivo del successo travolgente di questi strumenti. Offrono soluzioni immediate a problemi concreti e sentiti da chi insegna tutti i giorni. Il risparmio di tempo nella preparazione di una lezione, la possibilità di creare al volo esercizi differenziati, la sintesi di documenti complessi. Per un docente oberato di lavoro, questi sono vantaggi enormi. La domanda critica, chi controlla i dati, è fondamentale, ma nella pratica quotidiana viene percepita come un ostacolo, un lusso intellettuale che non ci si può permettere quando hai 3 classi da preparare per il giorno dopo. L'alternativa che viene proposta, quella di pratiche lente, cooperative, dialogiche, è pedagogicamente meravigliosa, ma come la implementi su larga scala, in tutte le scuole d'Italia, senza un supporto capillare, senza formazione, senza un alleggerimento del carico di lavoro? La posizione critica rimane minoritaria perché la convenienza immediata della soluzione proprietaria, nella pratica, batte la complessità della proposta alternativa. Dunque, per riassumere la mia posizione, la marginalità delle tesi di Guastavigna e Penge è una questione di potere. È la conseguenza diretta di precise scelte politiche ed economiche che hanno consegnato un pezzo fondamentale della nostra democrazia, l'istruzione, a un modello tecnoliberista basato sullo sfruttamento dei dati. L'egemonia delle piattaforme, legittimata e supportata dalle istituzioni, ha creato un ambiente in cui un'alternativa fatica persino a essere immaginata, figuriamoci a essere costruita. Per emergere, questa alternativa non ha bisogno solo di una visione etica forte, ma di una battaglia politica per la sovranità digitale nella scuola e di investimenti pubblici seri. E per quanto mi riguarda, sebbene riconosca che il potere del mercato e della politica sia un fattore determinante, insisto nel dire che la marginalità di queste idee dipende in modo cruciale anche dalla cultura interna della scuola e dalla difficoltà della proposta alternativa di presentarsi come un ecosistema pratico, accessibile e sostenibile. Per diventare un'opzione reale per la maggioranza e non solo per un'avanguardia, la prospettiva critica deve fare uno sforzo in più. Deve superare le proprie tendenze elitarie e offrire non solo una critica giusta, ma anche strumenti, metodi e supporto che rispondano in modo efficace e, direi semplice, ai bisogni reali e quotidiani di chi sta in classe. Mi sembra che, pur partendo da presupposti diversi, siamo d'accordo sul fatto che le ragioni di questa marginalità siano complesse. Non è solo colpa del mercato né solo colpa della scuola. C'è un intreccio, direi, quasi perverso tra potenti logiche economiche e profonde resistenze culturali. Esatto, ed è proprio questa complessità che il dialogo di Penge e Guastavigna ci aiuta a vedere. Capirla a fondo, senza cercare capri espiatori o soluzioni facili, è il primo passo, forse il più difficile, per poter iniziare a immaginare e poi costruire un rapporto tra tecnologia e scuola che sia davvero al servizio della crescita e dell'emancipazione delle persone.